Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mi ha lasciato, i figli non vogliono più saperne di me, il lavoro sta andando malissimo, mi stanno licenziando, finalmente potrò sentire la giornata tutti i giorni in diretta, che spettacolo, sono al top. David, stasera voglio condurre così, David, voglio condurre così, David. Voglio condurre così, David. Che voce hai? Ma scappato di casa, ma che voce hai? Voglio condurre così, vorrei. Ho capito, ma questa è la radio, non la televisione. È iniziata l'era di Donaldone. Adesso me la rimetto, me la rimetto questa maschera di Trump, me la rimetto. In silicone mi è arrivata la maschera di Trump in silicone. Per carità, per spettacolare. Carità. Però inizia bene, ragazzo. Vai in Messico con quella maschera. Inizia vai bene, inizia vai in Messico, bene, a ragazzo. Natale. A Natale vai in Messico con quella maschera, vai lì a terra in Messico. E che succede Messico, secondo te? E che metti succede? La maschera. Gli amici messicani in questo momento gli girano i tacos agli amici messicani, gli girano i tacos. Gli girano i tacos. Innanzitutto Donadone ha rinunciato allo stipendio. Prima cosa, ha rinunciato allo stipendio. Non è difficile. È proprio l'emblema del populismo. Ha rinunciato questo. Allo stipendio. Un dollaro prenderà un dollaro. Ecco, ma questo è proprio. Pazienza, sarà che quello che cos'è il populismo? Vabbè, ha rinunciato allo stipendio. C'è il multimiliardario che vive in un attico d'oro che sembra quello dei Casamonica, con meno Mamma, gusto. Ma che dici? Con meno gusto, peraltro. Casamonica hanno più gusto di Trump. Casamonica, da un certo punto di vista, persone deprecabili per 9 milioni di motivi. Però sicuramente non hanno un leone finto di peluche. Ce l'hanno vero, sicuramente. Non ce l'hanno finto come ce l'ha lui, il leone di peluche finto per il bambino. Dai, ragazzi, su. Ha rinunciato allo stipendio, annuncia di cacciare 3 milioni di immigrati criminali. Sì, come fa a trovarli? Criminali, ma intanto annuncia. Annuncia. Quanto ti piace questa roba? Quanto ti piace questa roba? E poi ha detto anche che farà il muro, che non sarà un muro, un reticolato. Un muretto sarà, un reticolato. Ridicolo. Ma perché ridicolo? Non ho capito. Uno che fa le cose... È un uomo tragico. They're talking about a fence in the Republican Congress. Sure. Would you accept a fence? For certain areas I would, but certain areas the wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. Ma scusa, vuoi mettere, David? Cioè, vuoi mettere uno così, uno come Donaldone? No, poi magari sarà un disastro, intanto ci divertiamo. Forse sarà un disastro, intanto ci divertiamo. Vuoi mettere uno così? E per esempio una statista del nostro paese, cioè un esponente del nostro paese, sai di chi parlo, no? Una non statista lo so. Del nostro paese, una delle cariche istituzionali più forti. il presidente della... Ti faccio solo un esempio che non citiamo mai. Il presidente della Camera. In questa trasmissione non viene mai citato il presidente della Camera. Mai, no, la signora Boldrini, mai citato. Forse una delle prime volte che la citiamo. Vuoi mettere la figura, no, di Donaldone con Laura Boldrini? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando della, cioè, di Dio e di, non so, di, ma che ti ha fatto? Di un piccolo discepolo. Cosa è successo con la Boldrini? Che ha fatto? Su, ragazzi, cosa c'è? Dai. Che ha fatto? No, perché il grande risultato annunciato, credo, nella giornata di oggi dalla signora Boldrini, non so dove, in un tour oggi o ieri, non mi ricordo. Senti che cosa ha prodotto politicamente, cosa ha prodotto. Per adesso Trump non ha prodotto un cazzo, per carità, siamo agli inizi, però. Per questo io ho insistito alla Camera. Per la prima volta a Montecitorio è entrata la definizione deputata. Non esisteva negli atti parlamentari la parola deputata. Non esisteva ministra negli atti parlamentari. Eravamo tutti uomini. Ma i coglioni. Vabbè, sei un po' alla presa come una battaglia epocale. Amico mio, è cambiata la vita di tutti noi. È cambiato tutto da quando negli atti parlamentari c'è scritto ministra, sì, è scritto che deputata, è cambiato corso, tutto. Guarda, che rispetto... la gente credo viva meglio adesso. Credo che la gente possa vivere meglio. Guarda, io ho sentito molte persone in giro e dicono: guarda, da quando effettivamente negli atti parlamentari, mi diceva l'altro giorno un mio amico molto colto, c'è la parola ministra, mia moglie si sente meglio, fa la spesa maniera più corretta, ogni tanto si ribella, la devo fare io, e vive più tranquilla, scopriamo meglio. E così è, cioè la gente ha questa sensazione che siano cose fondamentali. Per Grillo i Musei Vaticani sono del Comune di Roma. Vabbè, ragazzi. Dai. Sono dentro Città del Vaticano. Ti sei perso il weekend questa perla di Grillo. Aspetta. È naturale. Aspetta, sentilo prima. Ragazzi, ma che roba. Senti, prego. Ci sono 200.000 faldoni con dentro 30 anni di condoni mai riscossi, con tutto il patrimonio del comune. E nessuno sa che case, ci sono 100-200.000 case, si prendono affitti da 10 euro. Per esempio il Museo Vaticano, credo, i Musei Vaticani sono del comune, il comune non percepisce nessuna cosa. Parleremo con Bergoglio, perché credo che non lo sappia. No, amico mio, parleremo con Bergoglio. Sono del territorio. Ma guarda, questi sono gente pericolosa, però dai. Ma pericolosa, dai, su una cazzata. Ma gente che non sa un cazzo. Ma scusami, ma è normale? Ma il Vaticano si chiamano musei. Peraltro, il nome Musei Vaticani. Ma anche dal nome, uno si chiama Musei Capitolini. Scusi, Grillo, ha detto lei che voi avete mistificato tutto. Non è vero, abbiamo sentito le parole. Ma non è vero, sono quelle. Siete morti in questo giornale, finiti, morti. Questo un po' è vero. Il sole non sorge più 24 ore. Ma adesso che c'entra? Lei che ha detto la cazzata. C'entra che è finito. Ma cosa fate? Cosa insegnate? Finiti. Ma c'è scritto Musei Vaticani, va cambiato. Normale. Come va cambiato? Cos'è cioè, avete, va invaso il Vaticano, va conquistato. Ma non esiste più. Ma se andate lì davanti c'è un rivenditore di hamburger. Ma non è vero. La gente fa la fila perché va a vedere gli spettacoli miei. Però c'è scritto Vaticano. Ma non è vero, la gente in fila ancora lungo le morti, finiti. Ma quello che tutto c'entra? Finito. Con un clic abbiamo votato Trump anche da qua. Mi fermano per strada, la gente mi dice: ma allora adesso governate voi, governiamo noi. Certamente. Tutto il muro, fatto il muro con la stampante 3D, lo hanno già stampato in America. Ma restiamo ai Musei Vaticani. Il Vaticano è morto. Ho capito, però per adesso i Musei Vaticani sono ancora dei Vaticani, non del comune. Ma basta fare un esempio: avete visto quelle persone che girano con le palandrane nere? Sì, ma quelli sono dei preti, sì, vescovi. Perché sono di nero? Perché sono a lutto, perché è morto, tutto finito. Ho capito, però fino adesso i Musei Vaticani sono ancora del Vaticano. Ma chi ve l'ha detto? Ma l'hai detto tu. Ma quando? Ma no, ma abbiamo mistificato noi. Ma mai? Avete fatto una discarica abusiva lì dentro. Siete finite. Devi confondere le acque. Quando non sa un cazzo, devi confondere le acque. E la parola chiave è dire finiti, morti, finito, dai. Allora, intanto a Padova è caduta la giunta Bitonci, ragazzi. Bitonci a Padova. Non voglio dire che è una buona notizia. No, non voglio. Voglio fare la persona. Buona notizia. Non voglio essere entusiasta. A casa! Cosa? Mi tocci? Hai cacciato me e la Chiang dalla mia città quando siamo venuti e ora ti hanno cacciato! Però non ma scusa, voglio, però ma qualcuno dice che dovresti che venisse... candidarti? Qualcuno? Sì, sono pronto. No, certo. No. Se Bitonci si candida da solo, sì, sono pronto a sfidarlo e a candidarmi. Beh, da solo, ragazzi, amici del da PD. Solo. Amici del da PD. Da, amici che da del... Una cross coalition, voglio fare una cross coalition. Una grande coalizione. Una grande coalizione. Sì, ho capito, ma con chi? Una gran... Metteremo tutte le forze positive, buone. Allora, le allora forze... dice questo, cari amici del PD, se volete trovare se un candidato fuori da dai partiti, fuori esatto, dai partiti. Bravo. David Parenzo, mi sembra di capire, se non è una buttata, è pronto a prendere in considerazione l'idea di sfidare Bitonci in nome della legalità, di dell'accoglienza, no, nessuna legalità, proprio legalità solo. Non perderei tempo con quelle delibere che ha fatto lui, farlocche per chiudere i kebab, dove tutte queste puttanate che ha fatto. Siamo pronti, siamo già in campagna elettorale oggi. Fermi tu. A girare casa per casa, strada per strada, a raccontare il progetto nuovo di città, la città di Galileo Galilei, la città della più antica. Calma, tutto il programma. La città della più antica università, ritrovare centralità, ridare centralità alla cultura. Io ho in mente già un grande assessore. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, non alle 18:48. Siamo pronti a fare un grande piano di sviluppo per la città. Questa sta continuando. Sì, grande piano di sviluppo per la città di Padova. Mettere insieme i diversi attori culturali, l'università, il sistema dei teatri. Cioè, sto facendo il programma per Padova. Per Padova però rinasce adesso. Fermo. Ecco, quello potrebbe essere un buono slogan di Parenzo candidato sindaco. Padova rinasce. Benito, l'ho già fatto. Padova rinasce. No, adesso Parenzo ne inventerò. No, già il mio staff al lavoro, ne inventeremo un altro. Adesso allora, vediamo. La notizia è questa, cari amici di Padova, del nord-est, ma anche italiani. Potrebbe, non è sicuro, però è seria la cosa. Se corre da solo. No, se Parenzo potrebbe sfidare Bitonci, candidarsi a sindaco a Padova. Intanto beccatevi Don De Capitani, scatenato contro Trump. Don De Capitani, che è prete, diciamo, anche se in pensione, sempre prete. Beh, ecco. Il quale ha sempre detto delle cose incredibili contro Berlusconi, contro Salvini, contro l'Universo Mondo, persino contro Grillo. E adesso attacca spada tratta Trump. Per Trump e i grandi teologi, santi, pensanti, San Tommaso d'Aquino, erano d'accordo, in caso estremo, è chiaro, i tiranni andavano fatti fuori, per il bene della società. E che qualcuno mi dice, ma Trump è stato eletto, no? Certo, è stato eletto anche Hitler. Almeno ha avuto un consenso iniziale. Anche Berlusconi, no? Anche Salvini, Grillo, tutte queste bastardelle. Trump. Questo grassone, bastardo, pieno di un lardo, non lardo, almeno fosse un lardo, vabbè. Ma che cosa c'è dentro? Nella testa. Un grassone lardo. Ragazzi, più tardi, verso Parenzo, dopo... Va ricostruita in città una convivenza civile tra le diverse anime della città, che sono state in questi anni violate e violentate. Pezzi di città messi l'una contro l'altra. È partita la campagna elettorale. Noi siamo qui a dire, ricostruiremo Padova. Padova rinascerà, ripartiremo dalle periferie che io conosco benissimo. Non è la campagna elettorale. Silenzio, l'Arcella, Ponte Vigo d'Arzere, conosco benissimo. Dalle periferie ripartiremo, faremo strada per strada, casa per casa, parleremo con tutti, donne e uomini della città. Ho capito. Andremo a vedere gli asili nido, quanti sono, quali sono, dove sono andati a finire. Fermo. È una città da ricostruire. Allora, più tardi vi spiegherò anche a te. Più tardi illustreremo altri pezzi del programma, certo, che è già pronto. Ripeto, più tardi vi dirò, perché oggi ho fatto un piccolo interventino, caro Parenzo. No, finalmente ti sei messo a posto il cervello. No, perché vi spiegherò che cos'è la trombosi emorroidaria. Oh, che schifo, no. Amico mio, praticamente ti bucano un po' l'ingresso del buco del culo. Ti giuro. Che ti devo dire? Così ti spiegherò nei dettagli. Nei dettagli, ecco, che cosa, guarda, è già arrivato l'appoggio delle comunità musulmane. Abdallah Kabakevji mi scrive, guarda, veramente sono che dico così. Ti assicuro. Abdallah Kabakevji già scrive qui, Abdallah, hai già l'appoggio delle comunità musulmane. Abbiamo vinto, abbiamo già vinto. Non ha neanche senso fare. Secondo me, che cosa voti a fare a questo punto? Ma quando no, hai già. Cosa voti a fare? Cosa vuoi votare? Non c'è bisogno. No. La gente fermi, ha deciso nella rete. Ragazzi. Abdallah Kabakevji, ma abbiamo capito, c'è la comunità musulmana di appoggio, ma non potrebbe essere diversamente. Allora vi faccio sentire un pezzo d'epoca, ragazzi, me l'ha mandato un ascoltatore, effettivamente è così. Lemme non si è inventato niente, dottor Lemme non si è inventato nulla, quello dottor, delle ciccione, il farmacista, quello lì. Sì, quello delle ciccione, della dieta, eccetera eccetera, ha copiato pure, no, le marchi. Parenzo, guarda che pezzo che ti ho preso sulle marchi. Sulle marchi, marchi nobile, senti. Possibilità di utilizzare l'integratore alimentare per perdere 5 kg in 7 giorni. Beh, stupendo. Cioè, la figlia adorata. L'integratore alimentare. Ma questa era la coppia, 5 kg in 7 giorni. Aspetta, guarda che ti vendono lo sciogli pancia. Ti vendevano nobile. Lo sciogli pancia. Aspetta, sì, lo sciogli pancia. Cioè, sentite l'adorata figliola. Senti. 10 kg in 3 settimane. 20 kg in 6 settimane. 30 kg in 3 mesi e mezzo circa, facendo voi il prezzo, ricevendo in regalo lo scioglipancia pancia, del quale scioglipancia il prezzo ve lo dico, perché ve lo regalo, ve lo dico, 150.000. Ma non è regalato. Ma regalato cosa? Ma che? 150.000 lire. Ma i testi sembrano scritti da me, in verità è vero, però. 150.000 lire all'epoca. Lo sciogli pancia. Lo sciogli pancia, dice, sì. Ve lo regaliamo. Sì. La cosa bella è il tandem della dorata coppia, della madre e la figliola bellissima. La dorata pacata figliola. Che vedi, no, rimanda un attimo, perché è costruito quel tandem, no? Vabbè, cui una dice no, non me lo do, sì, me la regalo. Litigano anche tra di loro, capito? Litigano per creare attenzione nel pubblico. Non puoi regalarlo, mamma, certo che la regalo a 1 milione di euro. Dice, però non è francamente regalato, cioè è un costo, altrimenti muori. Ma però non è neanche carino da dire alla gente, insomma, non mi sembra una roba, no? Altrimenti ancora... diventi ciccione di più. Ho letto su chi questa settimana, sì. L'unica cosa che ho letto nel weekend, praticamente, oltre al Sole 24 ore, ovviamente, l'inserto meraviglioso, bell'articolo, bellissimo articolo di Napoletano sul Sole 24 ore da domenica. Non è vero, non c'è, sì. Sì, c'è. Vabbè, allora? Non l'ho letto, ma c'è. Immagino che ci sia. E quindi, su chi ho letto che si è sposata la Vanna Marchi? No, si sposerà, non ecco, sai un ho cazzo. Ho trovato l'amore a 70 anni. Ho capito, quello però non è contestabile. Ho trovato l'amore a 70 anni. Non puoi contestare quella roba là, scusa. Si sposerà in chiesa. Si sposerà in chiesa. Ma qual è il problema? E pare che sia sparito già un Caravaggio nella chiesa dove si deve sposare. Non so suo, cioè, nella chiesa dov'è? Sparito un Caravaggio improvvisamente. Era lì da secoli questa pala meravigliosa. C'è dovuto sparito il Caravaggio. C'è cazzo, com'è sparito il Caravaggio? Boh, sparito il Caravaggio. Ragazzi, dai, chi c'è qua? Ettore, provincia di Como, dai, Ettore. Dai, pochi secondi, se no mi mettono questa musichetta che meglio, un giorno meglio. Si spacco no, il vetro dello studio. Ragazzi, volevo fare i complimenti, anzi, i migliori propositi di elezione al signor Parenzo. Sì, grazie. Per il candidato sindaco, mi sembra, della città di Padova. Però prima bisognerebbe conoscere la realtà, ovvero... Vabbè, ma la realtà ci ha rotto già i coglioni dopo 2 secondi. Bisognerebbe conoscere la realtà. Ti ho detto pochi secondi. Bisognerebbe conoscere la realtà. Dai, aspetta un attimo, ti chiamiamo dopo, dai. Pronto, è la Trump Tower Fifth Avenue Manhattan? Ah, è la Zanzara? Vabbè, è uguale. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Prima che chiami il primo miserabile, voglio solo dire all'ottimo Parenzo che l'Italia che sta in silenzio e ascolta è sempre con lui. Facendo voi il prezzo, ricevendo in regalo lo scioglipancia, del quale scioglipancia il prezzo ve lo dico perché ve lo regalo, 150. Ve lo regalo, ve lo dico, 150.000. Vittorio Sgarbi. No, però scusami, dice, perché riascoltandolo poi, ma la roba vecchia, fate dai. Voi il prezzo, sì. E poi lo fa lei, ma come? Ma ha appena detto fatelo voi il prezzo. Sono dei geni, la assoluti. Vecchia sotto 150 e lei 100, cioè, ma ti rendi conto che associazione a delinquere che è quella? Comunque torniamo alle cose serie. Padova sta per essere ricostruita, partiamo, cominciamo a lanceremo il comitato elettorale e ripartiremo però simbolicamente dalle periferie, quelle periferie che Bitonci voleva sulle quali Bitonci voleva investire dove non ha investito. Ritroveremo spazi dove i bambini, allora, ragazzi, possono la notizia giocare. Come avete sentito, come è stato intuendo, è questa: Parenzo si vuole seriamente, da quello che sembra, candidare. No, c'è già un movimento, ma basta che tu guardi i Twitter. Sì d'accordo, c'è già un Twitter. Allora, si vuole seriamente candidare, sì, a sindaco di Padova, diamo, se Bitonci si candida da solo. Ecco, guarda, ma perché è pieno dire, di poi, gente, che cazzo vuol dire? Pronto a prendere la cittadinanza a Padova per votarti, ma che? E siete tanti, lo so, ragazzi, ci organizziamo. Emanuele Breschi, sindaco a Padova, avrebbe già il mio appoggio. Guarda qua, Chicca Maralfa, chi è Chicca Maralfa? Vabbè, comunque simpatica. Francesco, mi faccio la residenza a Padova solo per votarti. Faccio la residenza a Padova, guarda su. Quest'altro. Ragazzi, siete tanti, lo so, ma ce la faremo, riconquisteremo questa città che è stata non si sa come finita nelle mani di questo signore per qualche anno. Era il Medioevo. Allora, il Medioevo, il buio. Sgarbi. È il secolo dei lumi. Sgarbi e l'elogio del nero. Del nero come colore della pelle, usa un piccolo artifizio, no? Artifizio linguistico il professore, per dire che è la solita cosa: è meglio fare il nero piuttosto che pagare le tasse per mantenere Verdini, Alfano, eccetera, eccetera. Non posso pagare le tasse perché altrimenti sarei disonesto per darli a qualcuno come se fosse un fondo cieco. Io non so dove vanno e tu le spendi come vuoi. Col cazzo! E siccome non siamo razzisti, il nero ci protegge da questo orrore. Con il nero tu non partecipi a questa spartizione e a questa azione criminale che è quella, attraverso il bianco, di dare lo stipendio a Verdini, di dare lo stipendio ad Alfano, di dare lo stipendio a tutto questo governo. Cioè noi, pagando le tasse, diamo lo stipendio, chiamato indennità, a Monti. A Monti. Monti è senatore a vita, vuol dire che io devo pagare a vita le tasse per dare lo stipendio a Monti. Col cazzo! Allora andiamo a Belluno da Paco. Da Francesco Paco. Canobbio scrive su Facebook: con Parenzo sindaco inizierà già il dopo Trump. Cioè si sta preparando un terreno. Ma che si sta preparando. Francesco, cioè, con Parenzo sindaco sarà il dopo Trump. Eccolo qua. Paco movimento, Belluno, vai. Paco. Movimento serio, gente, dimmi, per Paco, bene. Io sono incazzatissimo con te. Oddio mio, Paco, sì. Che c'è? Dai. Sì, io mi incazzo con te, guarda. Mi cazzo come una iena con te. Che vuoi, dai, che vuoi? Perché tu devi smetterla di chiamarsi negri, come fai tu, no? Ma io non uso affatto la parola negri, la uso certamente non in modo dispregiativo, su questo non c'è dubbio. Sì, Cruciani, sì. Sì, perché sì, allora sì. Allora, come che io ti ascolto tutti i giorni, sì. Quando invito queste teste di cazzo dei leghisti, tipo col formaggio là di merda, eh. Ti arrivano, no? che cominciano a parlare, a dire delle cose. Che vorresti cose da me? Scusa, che vorresti? Mi hai insultato, ho letto dei messaggi che mi hai mandato, mi hai insultato. Ma come... per forza, perché tu stai facendo il test di cazzo, questo non funziona così, Cruciani. Non funziona, me lo devi dire tu come funziona, allora, tu con la spada di fuoco, qua. Dai. Su. Allora, ascoltami qua. Allora, i profughi sono qua. I neri che sono qua non sono tutti profughi, sai, gente come me che vive qua da più di 20 anni, che lavora, che paga le tasse, no? E chi ha detto niente? E intanto metti incinta le venete. Ma lascialo tranquillo. E dai, con la spada di fuoco, su Paco, dai. No, Cruciani, tu devi smetterlo. Paco, devi smetterlo, non credo... a chiamarsi. Allora, devi smetterlo a chiamarsi. Noi siamo dei neri, non siamo dei negri. No, ma è uguale, neri è uguale. Non è la stessa cosa. Ma che vuoi da me oggi? Cosa vuoi da me oggi? Perché io sono incazzato con te. E perché sei incazzato con me? Cruciani, a te posso solo parlare... Non uso la parola negro. Allora, basta parlare di stranieri, basta parlare dei musulmani e tu ti scateni come... Ma è una roba incredibile. Ma Cruciani, ma ricordi che stai conducendo una trasmissione dove che sono tutti ascoltano, sono i neri, sono i musulmani, sono e chi dice niente? Mica ho detto che ti voglio cacciare fuori dall'Italia. Rispetto, tu lavori in modo regolare? Lavori in modo regolare? Altro che, benissimo. Paghi le tasse. Adesso paghi le tasse. Fabbrica. Cruciani, adesso vado a fare 8 ore in fonderia. Hai il permesso di soggiorno? Vado a fare 8 ore in fonderia. Hai il permesso di soggiorno? Ma che cazzo? Ma adesso vado a fare 8 ore in fonderia. Abbiamo capito. Cittadino italiano lui. Sei italiano o senegalese? Ma no, certo. Io non sono ancora senegalese. Io la cittadinanza italiana non lo voglio. Non sei ancora italiano, dico, sei ancora senegalese. Non lo voglio. Sono io che non lo voglio. Non vuoi la cittadinanza italiana? Ma chi se ne frega? Diciamo, ce ne faremo una ragione. Voglio mantenere la mia. Voi? Vuoi mantenere la sua? Allora, ma perché deve essere concittadino di Bitonci questo civilissimo operaio qua? Perché lo stesso non c'entra. Non è che io mantengo la cittadinanza senegalese, non pago le tasse, non è vero. No, ma lo so. Pago le tasse come le pagano gli altri. Sto dicendo semplicemente che tu sei una persona onesta che viene dal Senegal e lavora da 20 anni in Italia. In fonderia. Non sei un delinquente. Non sei un delinquente, ma mica me la piglio con te io. A parte che non me la piglio. Ma no, ma tu generalizzi. Smettila. Sì, ma allora. Attenzione che ti mando formaggio. Attenzione che ti mando formaggio. Un pezzo di cazzo come il suo formaggio. Quando comincia a fare certi discorsi, bisogna fermarlo. Ma quale fermarlo? Non rompermi i coglioni, dai. Ma sì, devi fermarlo. Devi dirgli, ascolta questi qua. Questa trasmissione non è per questa parte, ma devi fermarlo, cazzo. Paco, fermalo. Come sta? Fermalo questo bastardi. Come sta? Oh, è bastardo addirittura, sì. Dai, su. Ma è per forza, sono dei bastardi, sono testa di cazzo che sono qua. Ma hai sentito cosa dicono? Se tu ce l'avessi davanti, che faresti col signor Gio Formaggio, Paco? Ma questo non merita neanche uno sguardo da me. Cioè, un personaggio di genere. Bravo, ma perché bravo. solo in Italia si puoi permettere di fare queste cose qua. Senti, solo anche in Italia, America, si può permettere di dire queste cose solo in Italia. Senti, Paco, spada di fuoco, come va con la tua figlia? Riesci a vederla o no? No, ancora no, Cruciani, ancora no. Però sono sulla buona strada. Devi stare attento con sta spada di fuoco. Stai facendo altri danni con sta spada di fuoco? No, tu sai che tu hai parlato una volta con mia moglie, sai che sono sposato, sono tranquillo. Ho capito, tranquillo. Poi sempre la spada di fuoco c'hai, però, sta lì. Ma quello è 20 anni fa, ho capito, ma non è che cambia, amico mio. Mia figlia che non ho mai visto, Cruciani, è nata nel 2005. Mamma mia, che tragedia. Io mi sono sposato nel 2006. I testimoni di Geova ce l'hanno, no? Sì, giusto? Sì. Cioè, ma io sono sposato nel 2006. Ma con chi? Con questa tragedia? Con la senegalese? Sì, hai parlato con lei una volta. Sì, una volta sì. Del 2005 hai messo incinta una, invece. Sì, nel 2005 è nata mia figlia che non mi hanno fatto vedere. E poi io sono andato in Africa. Vabbè, spada di fuoco, mi sono però... sposato con uno e l'ho portata qua. Sì, amico mio, che però tragedia, devi stare attento con sta spada di fuoco, tu. Devi stare... Ma di che? Ma no, ma io sono solo con mia moglie, Cruciani. Vabbè. Ciao, Paco. Ciao, Cruciani. Ciao. Riccardo da Chieti, vai. Riccardo, dimmi. Volevo dire una cosa a Parenzo. Sì. Eccoci. Io lo ascolto da tanto e, signor Parenzo, le devo dire, lei, mi sono fatto questa concessione, è il peggior fascista che io abbia mai conosciuto e ne ho conosciuti tanti di fascisti. I suoi comportamenti, le sue prese di posizione sono offensive nei confronti di tutte quelle persone che non la pensano come lei. Io le posso citare una frase di Voltaire, attribuire quantomeno a Voltaire. Ma la sappiamo questa frase, la conosciamo. Combattere, ecco, allora, Combatterò, combatterò mettendo anche la mia vita fino a quando tu, affinché tu possa esprimere le tue opinioni. Allora perché lei non consente non agli altri, a quelli che non, è vero, non c'è, è vero, non è vero, perché c'è poi un confine tra l'opinione, c'è un schiaffi fascisti. Parenzo, le manca solo il manganello. Sì, perché non è che le idee che vanno contro la democrazia, però non questo è il limite. No, purtroppo in Italia si possono esprimere. Ma non c'è scritto questo. Scritto, la tua idea possa esprimere liberamente. Non è che c'è scritto contro la democrazia, contro qualcuno. È chiaro idea che per apertamente qualcuno razziste e antidemocratiche si possono esprimere, ma sono i tribunali, però è l'unica cosa che io invoco. E perché deve esistere un tribunale? Perché la differenza che c'è perché tra l'odio e l'espressione di un pensiero. Ma chi parla di odio? Ha ragione Riccardo. Capito? Bruno da Padova, Bruno da Padova, vai. Parenzo, c'è aria di libertà a Padova. Ecco. Arrivo. Se n'è andato via. Lo so, arrivo. Prepara il comitato che arrivo. Grandissimo. La riscossa sta per partire, ragazzi. Organizziamo. La prima volta che Forza Italia fa una cosa giusta nella loro. Organizziamoci che siamo pronti. Ripartiamo, ragazzi, dalle periferie. Allora, mi alzo in piedi. Allora, c'è già quasi tutto pronto, ragazzi. Veramente, possiamo riprenderci la città. La città di Galileo Galilei. Pensate, all'Università di Padova, ragazzi, c'è anche la cattedra. C'è la specola. Uno che arriva da Cittadella, che è grande come un quartiere di Padova, che pensa di poter amministrare la città ci siamo. È calda la città. Fermi sarà tutti. Ripresa. De Luca, il governatore del mondo contro Trump. Questo un po' mi dispiace, devo dirvi la verità, farvi ascoltare questa cosa, perché per me io vorrei Trump De presidente Luca degli Stati Uniti, certo, bravo De e Luca. De Luca presidente del Consiglio. Per cui grande incontro al vertice De Luca Trump, che sono molto simili, però un po' per forma, no, un po' per simili. Assolutamente, un po' perché deve, perché essendo del Partito Democratico, comunque tratta male Trump. Questa cosa mi dispiace assai, sentendo questo ci sentiamo tra poco. Cruciani, 2 mesi di astinenza dal sesso non sono nulla. Io sono arrivato a 6 anni. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Luca contro Trump, che delusione, governatore del mondo, che delusione. Guarda come scrivono qui, guarda. L'America non ci fa mai annoiare, diciamo così. È un personaggio improbabile, perfino esteticamente, diciamo io. Sono fra quelli che ancora oggi fanno fatica a capire che cosa abbia in testa, ma non nel cervello, proprio sul cranio, Trump, questa specie di nido di quaglia, di cincia allegra che si porta appresso questa vela al vento. La cincia allegra, cincia allegra. Ah, dai, su. Yeah. Allora, che c'è? Personaggetto lo dice qualcuno di qualcuno, però, la parola personaggetta. A proposito, ragazzi, voi con chi state? Col signor Briatore o col signor Saviano? Bene. Guarda la gente che scrive Parenzo, sindaco cosa di stai tutti. Seguendo? Lavoro, integrazione, università, dai, cultura, su. Padova libera, aperta all'Europa, al mondo, # Parenzo sindaco. Siamo già in testa, già trend topic. Testa? Parenzo sindaco di Padova, siamo pronti. Grande rete in tutta la città. Partiamo dalle periferie, silenziosi, maggioranza silenziosa ma presente. Vabbè, abbiamo capito. Salvini su Napolitano, un personaggetto. Vedete che bello, è un personaggetto, come direbbe De Luca, un personaggetto, come il signor Napolitano Giorgio dice, è stata una notizia sconvolgente. Se la notizia è sconvolgente per Napolitano è un'ottima notizia per tutti noi. Allora, dove andiamo? Andiamo. Franco Parma, vai. Madonna. Dai Franco, calma, dimmi. Calma, dimmi. Franco? Questo sta con la radio accesa, guarda. Franco? Vabbè, vattene, va. Alberto Padova, adesso lo richiamiamo, dai, Alberto da Padova. Buonasera, Cruciani. Dimmi. No, volevo soltanto dire che a mio modestissimo parere Bitonci è stato il miglior sindaco che abbiamo avuto. Sì, però amico, ma non chiamare in viva voce, che sennò mi fa incazzare, su. Tutto lo tolgo. Dai, forza. Un attimo. Ho capito, ma inizi col viva voce come se niente fosse, come se non ce ne accorgessimo. Mica siamo nati ieri, dai. Perché te lo faccio per dispetto? Non lo so, ma non lo fai per dispetto, lo fai per comodità, l'ho capito, però. Dai, forza, quanto ci metti adesso? Dobbiamo stare ad aspettare i tuoi comodi. Pronto? Questa è una trasmissione, pronto, amico mio. Pronto. Dai, forza. Dimmi. No, ma dimmi, tu hai chiamato tu, dai. Sì. No, dicevo che secondo io rivoterò Bitonci, non poterò. Vabbè, rivoterai Bitonci perché pensi, da quello che ho capito, che è stato il miglior sindaco degli ultimi 20 anni a Padova. Male. C'è stato un periodo di profondo oscurantismo, la città ha vissuto veramente anni. Medioevo con Bitonci, medioevo. Sì. Veramente un medioevo di una ma città. Con chi? Con Zanonato sicuramente. Prima. Ma anche con la destra. Vabbè, ma lui pensa che sia stato bravo, non ho capito qual è il propaganda, problema. Propaganda. E ritengo che... Propaganda. Ma non ho chiamato per osannare Bitonci, che mi interessa fino a un certo punto, cioè nel senso che io vabbè, lo allora... voto, altri non lo voteranno. No, volevo stigmatizzare il meccanismo con cui è stato assicurato. Vabbè, lo sappiamo, dai ragazzi, l'hanno fatto fuori per una congiura all'interno di Forza Italia. Franco da Parma, dai, Franco. Eccolo qua. Dimmi Franco, dimmi. Mi senti Beppe? Sì, dimmi Franco, dimmi. Beppe, amici sono... Ascolta, due cose ti volevo dire. Sì. Franco da Parma. Dimmi Franco, dai, veloce, vai. Il camionista gay, mi ricordi? Penso di sì. Come no, camionista gay, certo che lo ricordo, assolutamente. Allora, quando ti chiamano per i parcheggi che gli rompono i coglioni, eccetera, sai che l'altra volta si è interrotta la linea perché erano in una galleria. Che non rompano il cazzo le persone che vanno nei parcheggi, che ti vanno a chiedere chi è, ti voglio fare una pompa, eccetera. No, che tu resti con le luci accese. Ma di cosa parla? Con le luci accese ti spogli, ti metti in mutande, naturalmente qualcuno ti rompe il cazzo. Ma non ho capito, Franco, qual è il punto che vuoi raccontare? Perché cosa telefona per dire questa cosa? Perché? Riguardo all'ultima telefonata che ti ho fatto. Vabbè, ma ho capito, non è che ci possiamo ricordare dell'ultima telefonata che hai fatto, Franco, scusa. Te lo dico io allora, se non ti ricordi. Dimmi, dai. C'era qualcuno che diceva che i parcheggi rompono il cazzo perché ci ma sono i questo da tempo che dicono che c'è un po' di gente che va là, che bussa rompendo le scatole ai camionisti per offrire prestazioni sessuali. Questo non succede mai, io sono 30 anni che faccio sto mestiere. Ti rompono il cazzo quando a te non ti rompo, a te, non rompono magari perché ci vai. No, anche se non ci vado. Che ti se fa piacere che qualche ti fa piacere che ci sia le tende, aspetta, fermati un attimo, lasciami parlare perché altrimenti è un casino. Quando tu ti fermi in un parcheggio, lasci le tende aperte, luce accesa, ti metti in mutande. Vabbè, quello che c'entra. Non ti aspettare che nessuno ti venga a cercare. Tu l'hai fatto qualche volta? Io? Ma naturalmente sì. Cioè, qualche volta tu ti sei offerto alla platea, diciamo. Questo di... perché dovrebbe interessare un ascoltatore medio di Radio 24 alle 19:41. No, innanzitutto devi distinguere tra l'ascoltatore della Zanzara e quelli della Zanzara. Perché c'è qualche persona che è interessata, magari quello che non interessa a te. Franco, no, qual è la piazzola che tu batti? E poi c'era una seconda cosa. Sì, ma devi stare tranquillo. Qual è la piazzola che batti di più tu? Cioè, dov'è la piazzola dove raccogli più i frutti, come dire, della passione? Sì, ma tutti i fermi dove cioè, tu ti sei fatto tutte le piazzole alla fine. Qualcuno l'hai tirato su? In no, tutte... piano, fermati. Io mi sposo fra un mese, quindi non ti è sposi che fra un mese? Sì, sono 26 anni che sto col mio compagno, Beppe. Vabbè, però... Era la seconda cosa che ti volevo dire, che comunque non riusciamo a capire qual è il municipio dove riesce a fare questa cosa, perché sono tutti contrari, te lo dico. Ma che contrari, sì. Dove abitate voi, scusa, tu e il tuo compagno? Fornovo Taro di Parma. Ma là qualcuno troverai, al comune non trovi nessuno che ti sposa? Al comune No, lo fanno perché sono obbligati, io ne vorrei uno... che lo facesse senza essere obbligato. Ma dopo che ti frega? 26 anni che sto col mio compagno, ti pare? Ma che ti frega, scusa? Cioè, che ti frega? Io facciamo obbligatoriamente? No, non mi piacerebbe molto, te? Ma che me ne frega? Ma non lo so, non me ne frega niente. Se uno si vuole unire civilmente, si unisce civilmente. Malgrado il sindaco sia contrario. Ma perché il sindaco è contrario? Il sindaco è contrario di quel paese? Abbastanza, sì. Vabbè, infatti non ha ragione, prendi un consigliere dell'opposizione. Ma ha detto che possiamo farlo nel comune che, in cui vogliamo, a quanto pare, dalla legge, quindi cambieremo comune. Cambierai comune, che ti devo dire? Vabbè, Franco, ciao, ciao. Comunque, riguardo le piazzuole, non ascoltare tutti, perché quelli che ti ha detto che vivono con i coglioni sono le persone che se li fanno rompere, Beppe. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Allora, caro Parenzo, è con noi un uomo che si è candidato a guidare l'Italia durante il weekend, caro Parenzo. Bene, tremo. Ma che devi tremare. Qui invece abbiamo a Roma un uomo che si è candidato a fare il sindaco di Padova. Bravo. David Parenzo, che ha ufficialmente annunciato questa sera. Vedo dalla rete, siamo già in pista, siamo già pronti. Due slogan molto semplici: no Bitonci, riprendiamoci Padova. Molto semplici. No, se Bitonci si candida da solo, potrei pensare di candidarmi. Potrei pensare che fai Andreotti, chi sei? No. Decidi o non decidi. Ma vedo già che nascono comitati spontanei, Parenzo sindaco. Bisogna far ricrescere la città, riportare la legalità. Salvini, non la cattiveria, avete la legalità. Vinto con questi già a Padova, avete vinto. Ma guarda, mi spiace per i padovani che per 4 mesi avranno un commissario che arriva da Roma che deve capire come sono le vie e le piazze di Padova. Però stando alle statistiche, anche del Sole 24 Ore è uno dei sindaci più amati d'Italia. Sì, dove probabilmente? Ma dillo ai padovani, scusa, fortunatamente. No, ma dico la notizia, hai visto che Parenzo probabilmente nel padovano ventennio, si candida sindaco. Probabilmente. Guarda, io capisco. Parenzo sindaco, hashtag Padova rinascita, stanno già facendo gli slogan, tutto pronto. Chi fava contro la Brexit e ha vinto la Brexit. Sì, chi certo. fava contro Trump. E ha vinto Trump. Che c'è dubbio. Odia Bitonci e verrà rieletto. Odio, no, io non odio nessuno. Padova è la città dell'amore, non dell'odio. No, noi siamo qua per amare. Ma scusa, andate da soli a Padova, senza Forza Italia. Correremo da. No, c'entra Bitonci. Ah, scusami, parlavo già da politico. Scusa. Se Forza Italia si fa rappresentare da quei 3 poltronari disposti a tutto di Forza Italia, di tenere il loro posto, noi andiamo da soli fuori. Se quali sono i cosi? Cioè, se quei 3 devono essere cacciati, diciamo. Ma devono essere esclusi. Ma no, ma dalla lista. Frega, ripeto, qua c'è una città che per 4 mesi sarà gestita da uno che non la conosce, mentre c'era un sindaco. Vabbè, quello lo sappiamo, non è cosa fatta. Basta, quindi andiamo da soli, fuori discussione. Ah, certo. Da soli sicuro, al 100%. Da soli, liste civiche, tanto se la sinistra a Padova è quella di Parenzo. Siamo pronti. Ma a una questo, sfida però, pubblica, possiamo casa dire per casa, che oggi strada per strada. Oggi che è successo? Lunedì scorso si doveva ancora votare per le elezioni presidenziali. A credere alla vittoria di Trump eravamo Beppe, io, te, io non c'è dubbio, e io altri 5. Molto pochi. Perché tutti i sondaggi, gli intellettuali, ma che intellettuali? Ma cosa c'entra? Gli attori, i banchieri, i giornalisti. Anche lui stesso non ci credeva. Lui stesso gli è preso un coccolone quando gli ha detto sarà presidente. Non mi pare adesso. Really? President? In democrazia c'è quel piccolissimo particolare che scelgono i cittadini. Sì, ma infatti in termini di voti li ha presi più Hillary, come lei sa, segretario Salvini, come lei sa, in termini di voti ne ha presi. No, ma ti voglio dire che in termini di voti, come sai, ma non mi dai fastidio, ti voglio anche bene. No, però scusa, mi fai finire un discorso di senso compiuto? Allora dici? Che dicevi? È possibile. Vai. Sto dicendo che nel programma di quel matto che è presidente degli Stati Uniti ci sono parecchi punti di noi matti della Lega, dalla tassa unica al 15%, all'espulsione di 3 milioni di immigrati clandestini, ai dazi contro l'invasione di merci cinesi, al blocco del TTIP. Ragazzi, e il mondo va così. No, ma ha copiato da voi? No, adesso non sto a dire questo. Ci sono tanti punti di coincidenza, evidentemente sono il buon senso. Senti una cosa, ma Parisi, adesso per parlare di Parisi, perché ogni tanto dobbiamo parlare di discorso Parisi. Chiuso, non merita neanche 3 secondi di discussione. Ha detto quella roba lì riferendosi alla manifestazione di Firenze. Oggi ha detto pure un'altra roba molto pesante, cioè siete estremisti, la Lega è una roba estremista. Beh, cos'è? Certo che sono estremisti, mica so. Lui ma è finito. Sabato c'erano. Poi io non sono appassionato di numeri. Sì. 30, 40, 50 mila, non so, una marea di persone a Firenze, da nord a sud, dal sindaco di Foggia al sindaco di Savona, al sindaco di Cascina, al sindaco di Ascoli, una marea di gente per bene, una piazza pulita. Il famoso sindaco di Cascina. Vabbè, il famoso sindaco di Cascina, come fosse, che è amministrata da 70 anni dalla sinistra come Monfalcone, che ha eletto un sindaco della Lega. Beh, ti fa schifo Cascina, non so. Ma lì. Non mi fa schifo per niente, ma come dire, il faccio, era il famoso sindaco di Firenze, cioè qua, il sindaco Lega, di Milano, no, il sindaco di Cascina, va benissimo, però. Come se Cascina e Galarate fossero popolati. Ma va benissimo, per carità. Detto però... questo, è quella la gente che mi piace. È ma questo, vabbè, questo Parisi è la manifest... con tre vetero democristiani che hanno cambiato 18 partiti negli ultimi tre anni. Rappresenta se stesso la sua... Ma non Parisi vale... ha detto semplicemente che è incompatibile col programma di Salvini. Ma perché c'è questo sottofondo fastidioso? No, lui perché è un sottofondo pagato. È un sottofondo pagato, ti voglio dire. No, oggi Parisi ha detto un'altra roba: che voi siete il centrodestra, non può essere rappresentato dalla Lega estremista. Sì, ma guarda, quello lo decidono gli italiani. Fortunatamente il mio problema non è Parisi. Il problema è che il 4 dicembre c'è un signore. Tu non sarai mai in una coalizione, non sarai mai in una coalizione dove c'è Parisi premier, candidato premier. Ma no, ma... Parisi che pensa ad Alfano e a Verdini, tienti Alfano, tienti Verdini e goditeli. Non ma ha mai il detto di pensare ad Alfano e Verdini. Non è Parisi, dai. Io ti posso dire che da settembre avevo scritto due righe a Fazio nella sua redazione. Per la possibilità di esporre le nostre idee, i nostri programmi, e mi disse no, perché politici fino al referendum non noi invitiamo. Ieri c'era qualcuno che ha fatto un monologo da Fazio. Renzi, sì, bravo, su questo hai ragione. Sì, c'era ragazzi, Renzi, ma adesso non è che questo possa occupare dalla mattina alla sera. Sì, su questo ha ragione. Ma adesso vedrai che troverà una no, una soluzione. Ragione Salvini a porre la questione, su questo ha perfettamente ragione. Ma mica non sono il problema con... è che. Poi oltretutto spiegala sta riforma. Vabbè, quello adesso non la spiegherà a modo suo, la spiegherà uno. Ma oggi ha detto a Milano il sì sarebbe la gioia di Milano, perché cosa cambia? Anzi, per Milano e Lombardia ma quella è la drammatizzazione del sì o del no, che è una follia, cioè non cambia né in un modo né nell'altro l'Italia, cioè ci sono idee diverse, insomma, ma no, ma non qualcosa cambia. Sì, in un qualcosa senso cambia, non è che diciamo, la vita quotidiana dei cittadini non cambierà il 5 dicembre. Ma cosa vuol dire? Su questo non c'è dubbio. Si rafforza di più Renzi o si indebolisce Renzi, dai. Sono stato tutto venerdì nelle zone terremotate e mi ha veramente arricchito, e sai qual è il problema? Lì non è il sì o il no, il problema è che lì sono zone di montagna, nelle Marche, in Umbria, nel Lazio, fa freddo. Dunque? E pare che arrivino dei container senza i bagni. Vabbè, quello adesso pare che arrivino, pare che il bagno costa troppo. Ma chiamate i sindaci, chiamate. Ma no, ma pare che adesso sì, magari sono in tutti sì. Sì, però Matteo, scusami chiamate un attimo, tutti i sindaci delle zone terremotate, da quando esistono i terremoti, purtroppo, però, si lamentano sempre con i governi perché ricevono però poco. Mi pare che è in questo classico caso invece i sindaci abbiano appoggiato quello che ha fatto il governo, mi pare. No, ma si sono sempre i sindaci delle zone terremotate. Se la sono 4 miliardi di euro spesi per gli immigrati. Grazie amici di Parenzo, ti pare di risparmiare. Ma dove hai speso per i terremotati? Ancora costa guarda tutto. Che i primi a rifiutare questa cosa, soldi per gli immigrati, soldi per i terremotati, sono proprio gli abitanti di quelle zone, gli abitanti di Amatrice, gli abitanti di quelle zone rifiutano questa tua cosa, immigrati e terremotati, sono i primi a rifiutarlo, perché sono persone civili. Anziché strumentali, sono stato ad Amatrice, sono stato ad Amatrice più volte. Guarda, sono stato più volte e non ho mai sentito nessuno dire danno i soldi agli immigrati. No, qui stai facendo una speculazione vergognosa, preelettorale, tipica da... Beh, sì, che ha detto, perché se tu dici che i terremotati di Amatrice dicono che i soldi vanno agli immigrati anziché ai terremotati, dici una scorrettezza, è una cosa non vera, perché non lo hanno mai detto, mai. Lei ha appena detto. E che ha detto? Hai appena detto che anziché dare i soldi... Mi chiede... Salvini, ci dai una mano per avere l'esenzione fiscale per tre anni? Per avere il fatto che non per sei mesi non paghiamo le tasse, ma per tre anni lo Stato non si fa vivo con i bollettini, ma si fa vivo con un aiuto. E invece nel decreto del governo c'è l'esatto contrario. Vabbè, senti, però, comunque, per tornare a Parisi, sto leggendo adesso che dice al Corriere della Sera, se non sbaglio, che chi crede a Salvini vada con lui, con la Lega ci schiantiamo, con la Lega ci schiantiamo, così. È quello che dicevano di Trump fino a martedì scorso, quindi mi auguro che abbia la stessa lucidità che ha avuto Renzi andando da Obama. Ma tu ti senti un po' il Trump italiano o no? No, assolutamente. Trump ha costruito imperi in una vita, il portafoglio che io in sei generazioni non raggiungerò, e ha costruito tanto. Vabbè, quello per i soldi, ma a livello... in piccolo ho l'orgoglio che parecchi punti del suo programma, ripeto, però dal TTIP tu, ai dati, dentro di te hai fatto il ragionamento, parte del nostro programma. Dentro di te hai fatto... tu il muro dove lo costruiresti, scusa, visto che lui lo fa col Messico? No, tu dove lo costruiresti? A parte che il muro c'era da prima e l'ha fatto Clinton col Messico. A me non interessano i muri, a me basterebbe che si salvassero le vite e si riportassero i barconi. E quindi dove lo faresti dove questo? Partiti. Faresti un muro di barche? No, che faresti? Del muro. Basta fare quello che sta facendo l'Australia. L'Australia e portare indietro. L'Australia, salvare, diciamo, portare indietro. Salvare e portare indietro. Ci vogliono, come lei sa, le convenzioni e gli accordi con gli altri paesi per portare indietro. No, non ci vuole. Ci vuole un minimo di palle, non le convenzioni. Ci vuole un minimo di orgoglio. Non è esattamente questo, perché anche il governo Berlusconi Maroni, faceva i rimpatri, faceva esattamente come tutti gli altri governi, come il governo Prodi. Senti Matteo, dopo quello che è successo a Padova, non è che vuoi togliere l'appoggio alla Giunta di Venezia, così ho letto da qualche parte. No, io rimprovero al sindaco di Venezia di occuparsi della politica nazionale e planetaria, ma non di Venezia. Cioè, non può dire del sì, scappando gli abitanti di Venezia, le condizioni di sicurezza a Venezia sono imbarazzanti. Allora lo fai cadere o no? No, ma guarda, noi non abbiamo neanche i numeri. Dico solo che se uno mi avesse detto prima che il suo sogno era il grande inciuccio Renzi Berlusconi, come detto, ha detto che oggi il della Sera, ha detto che il mio sì, sogno è il grande accordo Renzi Berlusconi, bastava che ce lo dicesse prima. Non l'avreste mai appoggiato di aver eletto un sindaco di centrodestra. Non l'avreste mai appoggiato, dici? No, assolutamente no. Basta dirle prima le cose. Fermi tutti, ci fermiamo, poi torniamo. Salvini, ancora due minuti, aspettate. Ave Parenzo, miserabilis te salutan. La Zanzara. Zanzarosi, siete entrati anche voi nel tunnel della Zanzara? Avete iniziato a pisciare nel lavandino, nella doccia? Vi lavate il culo con le mani invece che con la carta igienica? Attaccate anche voi le caccole sotto la scrivania? Non temete, la soluzione c'è. Venite anche voi nella comunità di recupero degli Zanzarosi. Dopo la prima colazione ascolteremo insieme 3 ore di Radio Maria. Dopo pranzo ascolteremo tutte le interviste di Zagrebeschi. E dopo cena sentiremo insieme tutti i podcast di Mario Adinolfi. Zanzarosi, non temete, in circa un mese tornerete persone normali e potrete così tornare alle vostre famiglie. Il demonio che è in voi verrà debellato. Siamo al top. Allora, voglio ringraziare tutti quelli che in questi giorni, anche nel weekend, hanno scritto in appoggio al carabiniere condannato a 1 anno, caro Parenzo, offrendo disponibilità economiche, soldi, eccetera, eccetera. Siamo in contatto con l'avvocato, sperando naturalmente che l'appello... Sì, non ho visto la stessa partecipazione per il caso Cucchi, non ho visto la stessa partecipazione... Ma cosa c'entra? No, perché dai, non l'hai lanciata, perché ovviamente c'è, perché quel paese lì c'è. Ma cosa quindi, c'entra? Comunque, sono due cose diverse. Sono dai, due cose diverse, su. Bravo, certo. Quindi per una sentenza di primo grado in cui ancora non si sa come si chiuderà, perché si può sa tutto quello che è successo. No, un carabiniere ha sparato a un'auto. Stiamo parlando del primo grado. Di ladri romeni, albanesi, anzi. E un GUP lo ha condannato sbagliando. Ci sono ancora 3 gradi di giudizio. Tu e Giovanardi avete già scritto la nuova sentenza. Non c'entra niente. Probabilmente arriva. Vedrai che arriva anche Giovanardi. A proposito, Salvini, come ti sembra il fatto che una fiction in televisione sulla Rai, noi per primi abbiamo notato questa cosa circa una settimana fa, faccia, non dico l'elogio, ma presenti un protagonista come il commissario Schiavone, interpretato da Giallini, il quale fuma spinelli, è un delinquente, spaccia droga, fuma marijuana continuamente, che te ne sembra? No, ma è così, non è così. Mi stupisce più nulla della Rai. Ricordo solo che da 3 anni è fermo in Parlamento il progetto di legge della Lega per cancellare il reato di eccesso di legittima difesa. Per quanto mi riguarda, polizia e carabinieri devono aver mano libera per fare il loro lavoro nel rispetto delle regole. Ce l'hanno sulla già. RAI, da fuoco a mare, alle fiction su Lampedusa, ormai per la RAI sembra che se tu non ospiti 2 clandestini in tinello sei un subumano, un sottosviluppato. Però non mi stupisce. Volevo chiedere a Parenzo a proposito del giornale radio di Radio 24. Ma scusa, fammi capire questa cosa da milanese. C'erano i militari a Milano nelle strade. Il PD li ha mandati via perché non servivano. Oggi Sala del PD chiede i militari a Milano per le strade. Sai perché? È una cosa di destra, dovresti essere contento. No, appunto, allora, nelle periferie, non nelle strade, in alcune periferie. Schizofrenici. No, è molto semplice. Siccome Milano è la città che si è fatta più carico di ospitare rifugiati, perché altre stai calmo, perché altre certo, perché se tutte tra delinquenza e immigrazione, perché se tutte le città si facessero carico pro quota parte, se tutte le città si facessero carico di ospitare piccole comunità di persone, non ci sarebbe il problema. Adesso serve l'esercito, perché l'esercito può servire, perché nelle periferie sono comunque abbandonate a prescindere, e quindi serve la presenza dello Stato. Voglio capire una cosa, ragazzi. E dovresti essere contento. Nessuna arrampicata libera. Milano è la città che sta ospitando più migranti in assoluto. Sei contento o no? Quindi ci sono più reati e quindi serve l'esercito. Non è una questione sei contento o no che c'è l'esercito nelle periferie a Milano? Vanno gestite le situazioni. Io penso che la gente per bene una divisa non faccia paura, anzi. L'hanno tolto loro. Dunque sei contento? Sei a favore di questa cosa di Sala? Assolutamente sì, non l'avrei mai tolto. Una camionetta che magari avrebbe tolto qualche problema. Io sono convinto che invece non serva assolutamente a nulla. Beh, una divisa in più male no, non fa. Io sono sempre stato convinto che l'esercito di Mosca, io venerdì torno a Mosca, ma l'esercito un bel po' di divise, lì un bel po' di c'è da avere paura, lì c'è da aver paura dell'esercito, però se giri per Mosca, perché diciamo non è un esercito cresciuto alla scuola Guarda, di Einaudi, quello di Mosca. Mosca che io mi onoro di prendere pagando il biglietto è 10 volte più sicura rispetto alla metropolitana di Roma. Parlavo di del paese in sé, che non è un paese esattamente a democrazia liberale. Vabbè, adesso lascia perdere la Russia, non ci impelaghiamo sulla Russia. È innamorato della Russia lui. Ma sì, che deve fare? Innamorato. Allora, preferisce la Russia, alle grandi democrazie europee. Di Parenzo costano all'economia italiana 5 miliardi però di euro. Però voglio dire, l'esercito nelle periferie serve veramente serve a poco, veramente la polizia locale, serve la polizia di Stato, servono i carabinieri. C'ha ragione, su questo c'ha ragione. Terremotato ho incontrato dei vigili del fuoco straordinari e ricordo a Renzi che ce ne sono 15.000 senza contratto. Comunque ragazzi, la fila dei rosiconi, caro Parenzo, si allunga sempre di più. Vedo qua che c'è un filosofo, non vi faccio nemmeno il nome perché non me ne frega niente, non lo conosce nessuno, il quale ha detto in un'intervista, credo nel weekend, l'elezione di Trump è una grande pagina nella storia dell'imbecillità. Un altro, uno scrittore americano, che dice: non riesco a spiegare ai miei figli cosa è successo l'8 novembre. Ma sono tanti. La Boldrini che ha detto che l'elezione di Trump è inquietante, napoletano. È inquietante. Dai, ma andate in Siberia in comitiva a divertirvi a giocare. Ma come in Siberia? In Siberia portavano i deportati, però li deportavano. Ma guarda, ai lavori forzati. A uno che applaudì all'invasione dei carri armati in Ungheria, adesso dice che l'elezione di Trump è sconvolgente, come il signor Napolitano. Tu resti convinto che vada a divertirsi con i pupazzi di neve. Cioè, tu lo vorresti in un paese normale, sarebbe lavori forzati. Ma lui, la Boldrini, tutta questa gente, Madonna, Bruce Springsteen, Bon Jovi. Secondo me si è un po' esaltato Parenzo, per la vittoria di Trump. Quindi sono Trump metodi del tuo amico. Ma Napolitano, resti convinto che vada processato per attentato alla Costituzione? Ma assolutamente, ha svenduto la moneta italiana, i confini italiani, l'industria italiana, l'agricoltura italiana, Napolitano. Meriterebbe un processo, migliore. Meriterebbe un processo secondo ma te. Ma guarda, vista la sua età, ormai non merita nulla. Ho capito, non merita nulla. L'età. Ma no, ma un po' di clemenza, una pacca sulla spalla e un sorrisetto. Un sorrisetto. Vabbè, ciao. Vi abbraccio. Ciao. Ragazzi, c'è gente che appoggia Parenzo, sindaco di Pava, ve lo dico subito, c'è pieno. Vincenzo da Padova, un'onda. Nicola che invece è il contrario. È un'onda sorridente, un'onda che vuole riportare il sorriso, il sorriso contro l'odio, contro le divisioni. Bitonci ha portato divisioni in quella ragazzi, città, io vi voglio riportare il sorriso. Stavolta il sorriso. Non è esclusa la lista Zanzara a Padova, No, ma che no, Zanzara è un brand che mi fa creare nazismo. Mio. Per carità. Ma no, con te, ma che sei scemo, Non passa perché è una città civile, vedrai. Come è passato Bitonci? È successo così per sbaglio una volta, ma Feltri, vedrai. Non ho mai tradito mia moglie. Io mia moglie non l'ho mai tradita. Appunto. tutto. Ho avuto qualche diversificazione, che non è tradimento. Diversificare non è tradire. Cioè, questa è curiosa, questa cosa feltriana. Non ho mai tradito mia moglie. Ho diversificato, che non è tradimento. È una concezione abbastanza moderna, forse anche paracula per qualcuno, diciamo, della coppia, no? Cioè, il Feltrone dice sostanzialmente, che cosa, il direttore di Libero, che lui non si sente di aver tradito la moglie, ma di aver fatto qualche diversivo. Sgarbi e le sei amanti di Feltri, sentite. Io posso dire la verità, conosco almeno sei amanti di Feltri, una delle quali è attuale, e so quello che pensano di lui. Ti posso dire io. Ma non è vero. Non dico i nomi perché siamo qua dopo Trump, siamo per mancherebbe altro. Ma lui ha un sacco di fidanzate. Ma che basta, non dirle queste cose. Ha fatto una dichiarazione d'amore. Ma l'ha fatto apposta perché è un ipocrita. Grande scontro. È un ipocrita. Sgarbi contro le unioni gay. Uno che non è cristiano, che cazzo si sposa a fare? I gay che si sposano, che cazzo si sposano a fare? Ma perché vi sposate? Fatevi i cazzi vostri! Perché l'amore deve configurarsi come un'unione davanti a un sindaco del cazzo che ti guarda e dice, allora, siete uniti? Fermo! Sono unito io, mi unisco. Tu, voglio sapere una cosa e la devi dire la verità. Dico la verità. Dimmi che prendi 1.000 euro ogni volta che dici cazzo, eh? Se cominciamo. Ci ha chiamato Donato, dimmi Donato da Varese, Parenzo, Dimmi Donato, dimmi che, allora, mi vuole. Dimmi, che c'è? Io non voglio fare nessuna performance perché non mi interessa. No, tu sei di essere quello che sei, senza. No, qualcuno dice tu vai lì, fai io. No, tu sei quello che sei, sempre naturale, mai detto che fai spettacoli. Sono naturale. Allora tu devi prendere. Allora, io ve lo dico. Dice. Se l'Italia mi ascolta, io sto parlando degli italiani. Sì. Sto parlando dei veri italiani, quelli che hanno costruito questo paese con la vita, col sangue e con il sudore della fronte. Adesso che c'entra? E non certamente l'Islam africano, sti pezzi di merda che vengono in questo paese, perché quelli devono rimanere lì. Noi ci stiamo rovinando. Guarda, io c'ho nella testa un milione di cose e non so per quale motivo, quando vi telefono, non riesco mai a dire un cazzo. Non per il tempo che tu non mi dai, perché tu sei uno dei pochi in quest'Italia che dai voce alle grandi verità. Sei uno dei pochi, credimi, Giuseppe. Sono dei pochi, non mi interessa il cazzo per cui lo fai, l'importante è che tu lo fai. A me non mi interessa se una persona, il motivo per cui mi metti il pane in bocca, mi interessa che me l'ha dato il pane in bocca. Quindi tu stai mettendo il pane in bocca a un vero italiano. Questo schifoso che è a fianco deve andare a Padova e deve andare a leccare i coglioni a Bitonci. Si deve bere lo sperma di Bitonci e potrebbe in qualche modo assomigliargli. Questo è il veleno della nostra Italia. Ma come questo? C'è l'assassino Renzi. Che vuoi Renzi dare? Deve essere ucciso. I magistrati vengono a prendermi. Perché deve essere ucciso? Renzi, liberare questa nostra. Io ho avuto parenti che sono morti in guerra. Gente, gli italiani stanno una morendo. Io non so che cazzo devo dire. Ci sono italiani qua che stanno morendo. E questo figlio di puttana che è a fianco, che sta bene, che fa la bella una vita. Macchietta, sto radica chic di merda. Una pura macchietta. Sto sanguisughe. Una ridicola macchietta. Secondo me non è vero, è un fake. Io non parlo di lui. Io parlo di un milione come lui. Secondo me è pagato. Secondo me è pagato. Ma da chi è pagato? Non ho da capito. Te. Ma che è pagato da me? Secondo me non è vero. Ma allora, questa ma merda che c'è lì. Donato, una persona è una persona. Tipo del nostro fallimento. Io voglio una Padova piena secondo di italiani. Voglio una Padova piena di italiani. Non è vero, dai, non può essere più vero. Degli italiani. Bisogna scriverlo sui muri. È stato assunto a Bordereau, per forza. Non è degli africani, non è dei nigeriani, non è dei marocchini. l'Italia e degli italiani. Allora se non è così, è una maschera, come erano quelli della notte indietro, di luogo, lo voglio vivo. Donato, voglio 10.000 italiani che sono stati uccisi negli ultimi anni in mano agli stranieri. Io guarda, sto guardando il televisore, ci sono l'Islam, ci stanno mangiando. Scusami Donato, te, dimmi. Donato scusami, ma che ne facciamo con gli stranieri che sono in Italia, cioè con gli islamici, gli africani? Gli islamici bisogna andare via tutti, ma non per fargli un torto, per evitare che fra qualche decennio ci ammazziamo tutti, ci ammazziamo, credetemi, ci ammazzeremo tutti con l'Islam, ci uccideremo tutti. Uccideremo tutti. E gli africani che stanno in Italia, un sacco di gente, che africani, ne so, la Chieng, che faresti con la signora Chieng? Gli africani mi sono messo una petroliera, portarli tutti via, tutti via, tutti, le case popolari, strapparle via in mano agli stranieri, dalle agli italiani che stanno morendo di fame. Allora voi mi dovete dire un italiano. Scusa, ma quella la signora Chieng e altre persone inserite nelle società? La Chieng, ma che cazzo è la Chieng? La Chieng, non so che cazzo sia. La Chieng è stato uno scandalo. È stato il ministero. Ho capito, che facciamo, italiana? Più schifoso che fa, ha umiliato mezza Italia la Chieng. Ma ok, ma è italiana? Lei è corazzo, figlio di puttana di Letta, Bersani. Ma ho capito, basta. Donato, scusami. Scusami, Donato, scusami un attimo. Allora, gli africani che hanno la cittadinanza italiana, quello tu dici, neri. Ma vai, coglioni, via la cittadinanza! Perché ci trasformeranno? Ma ho capito, ma come fai a togliere? Lo chiamano quattro volte più di noi! Spariremo! Spariremo! Ma come fai? Porco di vergogno! Pure figlio di una bacia alle braccia all'Islam! L'Islam distruggerà le chiese, monasteri! E che facciamo con Bergoglio? Con Bergoglio? Che facciamo con Bergoglio? Bergoglio, quattro cacci nel coglione a quell'idiota! Brutto idiota! Non c'è manco. Rappresento io Cristo! Io rappresento Cristo! Tu! Sono il figlio di puttana! No, beh, adesso tu rappresenti Cristo e Bergoglio! Invece no! Adesso questo mi pare troppo adesso. Comunque, è una teoria, è una cosa. Ciao teoria. Donato, ti abbraccio, ciao. Allora ragazzi, basta chiamarlo Donato da Varese. Io sono di Varese e mi vergogno. Che lì la mia di Varese. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Zanzara. Allora, caro David, ti devo spiegare che cos'è questa specie di tromboflebite. No, cioè, che schifo, ti prego. È amico mio, però sono non cazzi, mi interessa per nulla. Ma no, è importante, può succedere anche a te, non è che uno non può lo succedere. Guarda, a me non succede, ma può uno lo guarda anche su internet e no, sa ma cos'è. Ti dico, si formano proprio all'ingresso dell'ano, praticamente, due palline. Ma non mi due palline, due palline che tu ti tocchi sotto, un male pazzesco. Poi a un certo punto c'è il tizio che ti fa un'incisione, fa zac. Ti fa esplodere questa specie, non ho visto nulla naturalmente, ti fa esplodere questa specie di pallina in un lago di sangue praticamente, e poi c'è la spremitura fino alla fine, come se tu avessi una specie di pus che si spreme. Che schifo, mamma mia. Amici miei, la radio verità. No, lo schifo. Poi si pulisce tutto, naturalmente ti resta un male pazzesco, soprattutto quando c'è la spremitura a mano, per esempio, dopo la, ovviamente con i guanti, no? Il medico che fa? Prima incide. Poi a un certo punto spremi a mano, tutto questo proprio all'ingresso dell'ano. Una cosa tremenda, guarda, tremenda, non me ne parlare, guarda, una cosa. Ma io terribile. Infatti non voglio parlare assolutamente. Terribile, terribile. Sei terribile. Tu che parli di ste porcherie. Beh, ho capito, non è una porcheria, è la realtà. Cioè, non so, dice, è una cosa medica. È una cosa, ma no, ma come no? C'è bisogno assolutamente. E poi per guarire definitivamente da questa cosa, perché non ritorni più, c'è un processo che si chiama legatura elastica delle emorroidi, ti giuro. Cioè praticamente ti legano questa specie di pallina che è rimasta secca, no? Che però poi si riforma, te la legano in modo che non si formi più il trombo praticamente, la trombosi. Mamma mia, David. Quante cose si capiscono però, quante cose si apprendono ogni giorno, anche del proprio corpo, Terribile, terribile, ragazzi. Ah. Allora, cosa è successo in un paese in provincia di Vicenza, se non sbaglio, o comunque in Veneto? Ci sono due signori, ci sono due signori i quali hanno candidamente affermato, ripeto, candidamente affermato, una coppia uomo e uomo, che si sposeranno sabato, credo a Schio, se non erro. Veneto. Che cos'è? Vicenza, Schio? Sì, sì, provincia di Vicenza, Schio. Allora, ovvero, no, Schio Vicenza. Non lo so, comunque, si sposeranno, perché? Si sposeranno, e attraverso la legge Cirinà, il problema è molto semplice, che lo fanno senza essere omosessuali, senza essere una coppia. Cioè, praticamente lo fanno per comodità. Approfittano della legge per dire siamo uniti e dunque avranno, che ne so, delle agevolazioni, la questione della pensione, eccetera, eccetera. Una vera e propria truffa, secondo alcuni. Chiamiamo uno di questi, vai. Sì, pronto? Bertoncini? Sì. Buonasera, sono Cruciani, come sta? Buonasera. Devo dire che lei è un genio, eh? Le posso dire subito che lei è un genio? No, oltre che un genio, secondo me è anche sincero, perché molti si sposano per convenienza e non lo dicono, lei invece ha il coraggio di dirlo. convenienza sì, in parte, nel senso che ho semplicemente... Cioè non state insieme, scusi un attimo, lei è Piero, mi sembra, no? Che vi sposate? No, sono Gianni io. Ah, lei è Gianni, sì, lo so, vi sposate sabato con Piero, no? Vi sposate tra virgolette, cioè. Lei ha quanti anni ha, lei, scusi? 56, il suo compagno? 70. Non siete una coppia, cioè non siete innamorati, no. Non state insieme? No. Siete amici? Sì. Siete amici? È una truffa, dai, una truffettina. Perché lo fate? Questo è Parenzo che parla. Sì. Secondo me no, nel senso che noi non è che truffiamo la legge parla chiaro, due persone che convivono hanno determinati diritti e ovviamente dei doveri. Per cui non, la legge non specifica che voi dovete essere, bisogna essere omosessuali, anche perché sarebbe ridicolo. No, anche perché quando abbiamo fatto... Diciamo il preliminare in comune, sì. C'è un questionario a cui bisogna rispondere, in cui non c'è questa voce. L'unica cosa che è sicura è che vivete insieme. Sì, da 12 anni. E perché volete fare questo passo? Perché avete delle agevolazioni? Perché in questo modo siete favoriti, non so, sulle case? Guardi, è successo che il mio convivente ha avuto un problema di salute abbastanza grave. Sì. E... lei sa come funzionano negli ospedali, cioè o si è parenti, non è che uno può andare lì a chiedere informazioni dettagliate, perché la prima domanda che mi hanno fatto, ma scusi lei chi è? Vabbè, però non è che uno si sposa solo per questo, eh. Sì, poi chiaro, vabbè, però quello che conta, penso, in questo frangente è il rapporto che legano i due. Cioè, e che rapporto è? È un rapporto di amicizia profonda e di... Capito, ma è due amici, non è che, voglio dire, si sposano, non so come dire. Da questo punto di vista Parenzo ha ragione a dire che è una mezza paraculata, perché voi non state insieme, non avete un rapporto, diciamo, di amore, di affetto, e vi sposate per motivi pratici alla fine, o no? Direi di sì. Poi se questo implica che le persone devono andare a letto, doveva essere specificato dalla legge. Cioè voi siete eterosessuali tutti e due, avete delle fidanzate, delle storie, delle donne? Scusi. Abbiamo avuto, sì, ma in questo momento no, sinceramente. Che ne so, magari le cominciano a piacere gli uomini, scusi, così. Ma può essere, cioè non è che quello sia un problema. Il problema è che se lei analizza la legge, sì, è indirizzata a persone conviventi. Cioè, sì, non è che la legge è stata fatta per le persone omosessuali. Sì, diciamo che questa è sulla carta, è così. Allora io mi attengo alla legge. Per me è stata la conseguenza naturale del fatto che, vivendo e condividendo una casa, i problemi quotidiani... qual è la molla? Cioè il problema quotidiano che vi ha portato a fare questa scelta? Cioè qual è il vantaggio reale? Sì, questo che non capisco. Cioè al di là della questione dell'ospedale che mi ha detto lei, eccetera, qual è il vantaggio reale? Per esempio... quando uno dei due mancherà, ci sarà anche un discorso di reversibilità. Quindi voglio dire. E poi che c'è? Un altro vantaggio? Qual è? Un semplicissimo esempio, anche abbastanza banale, però solo per dire che per anni è arrivato sempre un doppio canone RAI da pagare, con conseguenti raccomandate da mandare, con telefonate, bla bla bla bla bla bla, per spiegare che vivevamo sotto lo stesso tetto, e quindi poi ogni anno si ripeteva. Ma avete due stanze da letto diverse, immagino. Ovviamente sì. Ma non le fa impressione un po' la cerimonia? Che ne so, vi darete un bacio sabato? Che farete? Vi scambiate l'anello? No, il bacio ce ne danno anche due amici sulla guancia. Ci, stringeremo la mano, non lo so. Ah, niente, dire, bacio, no. Solo la mano, naturalmente. Ma non lo so, ma non è che sia un problema. Magari non un bacio da francese, voglio dire, ma un bacio sulla guancia si può dare. Vabbè, no? Per cui nel futuro lei non a questo punto ti do del tu, va Gianni. Sì. Non prevedi di sposarti con una donna, mi pare chiaro. Beh, come fa? Che ne so, beh, direi di no. Diventa bigamo, se no. Cioè, nel senso che andrà così. E gli uomini non ti sono mai piaciuti? No, direi di no. E al tuo compagno? Bisognerebbe chiederlo a lui. Che ne so, ma dimmelo tu. Dimmelo. No, quello che so io, no. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Bah. Però ragazzi, i matrimoni di convenienza ci sono sempre stati in realtà, cioè che siano sì, eterosessuali, omosessuali, eccetera, ci sono sempre stati. Certo, cioè attraverso questa unione civile possono sposarsi pure persone che manco si sono sfiorate in vita loro, no? Cioè, o persone che non hanno nessuna intenzione di avere un rapporto affettivo o sessuale, ma semplicemente per convenienza stanno a casa, sono anche piuttosto... Però giustamente mi ricorda il mio amico Benedetto Sacerdoti, che con la Cirinnà è stato istituito anche l'istituto di convivenza. Vabbè. Molto attento Piero alle leggi e alle regole, bravo Benedetto. Ma no, chi, è? Chi però... se ne frega? Mica è focus economia questa. No, Piero ma è mio carissimo amico che però ti dà questa notizia. Con la cena fammi sentire Piero, dai. Senta, se io voglio dire una cosa a Parenzo, che il signore di prima, che è quello grida, fa, ha tutte le ragioni del mondo. Ma perché bisogna provare fake, queste cose immigrate. Poveretto. Io sono stato in Africa, ci sono stato in Etiopia, in Eritrea, e mi hanno trattato come un animale. Appunto, noi siamo la democrazia, siamo civili, siamo l'Europa, siamo l'Italia. Siamo civili, non è che ci dobbiamo paragonare. Qua, ma scusi, ma in genere lei si paragona con chi è meglio di lei o con chi è peggio di lei? Io vorrei paragonarmi con persone che sono meglio di me, non con persone uguale, che sono peggio di me. Lei è peggio. Ma no, le ho fatto un altro esempio, accenda la testa. Ma perché Parenzo è peggio? Uno si paragona con chi è meglio, non con chi è peggio in genere. Io voglio confrontarmi con gente migliore di me, non peggiore. Hanno paura perché lei difende questi immigrati. Ha capito? Sì. Pensavo io là, li facevo vedere che significa avere le palle sotto. Che facevi? Io? Ah, Parenzo, prima eliminavo Parenzo. E poi chi veniva dietro? Chi lo difende pure? Ma non ho capito, eliminavi da che punto di vista? Come? Lo ammazzavo! Quello è un dittatore lui è un dittatore. Gli altri. Non ho capito chi vorresti ammazzare, scusami Piero. A Parenzo, quel che sta là. Sì, ma come? I coglioni per far vedere chi c'ha le palle. Leone da microfono. Chi dai. Vuoi ammazzare? Tu ammazzeresti Parenzo? Io voglio ammazzare Parenzo. Ma come? In che modo? Come? E poi vedrai. Beh. Un giorno lo saprai come è morto Parenzo. Mamma Vabbè, Piero, mia, che ma, paura. Ma che fai tu? Il camionista? Che fai? Io fa il decorticato. Sono un camionista, sono una persona normale come tu. Sì, però no, non normale, che io no. Lei è una persona per una fotografia di merda. Mi hanno portato in carcere. In una stanza 2x2. E te credo. Grazie al consolato sono vivo. E te credo. Scusami, che l'hanno portato in carcere. Piero, non ho capito, ma come stai telefonando che non sento un cazzo? Io il telefono. Normale, sì, non è che c'è la viva voce del cazzo, il mio l'auricolare, no. Oh, Piero, richiamatemelo, dai. Mauro. Da Udine, forza. Mauro, niente. Lorenzo. Dai Mauro, dimmi, dai, forza. Dimmi, mi hanno chiamato. E se non parli, cazzo, dai. Però, ascolta, di che cosa vogliamo parlare? Vai a fare il culo, vai, Piero da Cuneo, dai. Ha chiamato lei. Dai, Piero da Cuneo. Allora, Cruciani, vorrei che lei chiedesse al tappeto Trinariciuto che è a fianco, non so se è a fianco o se è tappeto. Chi è che ha costruito i muri in Italia? Glielo dico io. A Padova lo sceriffo Rosso aveva fatto nel 2006 un muro anti-immigranti e anti... Ha risanato un quartiere della città che si chiama Via Anelli. Ha risanato col muro. Col muro comunque. Ma quale muro? Ha risanato quel pezzo di poi, città. Poi, Piero, poi... E poi volevo dire un'altra cosa. Quando chiamano... Dovete ringraziarlo. Ringraziarlo. Quando altro chiamano, che Bitonci. Quando chiamano... Dottore Parenzo, che non si faccia chiamare dottore, perché mi risulta che non è neanche laureato. No, infatti non ho mai detto. Cultura a Padova, dai, Parenzo, sai come ti chiamo io? Cucundra. Sai perché è Cucundra? Cucundra, sì, Cucundra, Cucundra. Chi sarebbe? Era un topo, perché lui squittisce, non parla, squittisce. Cucundra. Piero da Bari era con noi prima. Piero, che vuoi ancora? Sì, stavo dicendo, bisogna provarle queste cose. non stare seduto a fare leccaculo come fa Parenzo, perché lui lecca il culo a queste persone qua e lo portano in alto a questo ma chi è che li porta là? Ma io non ho capito, ma è la fiera degli ubriachi, cioè bisognerà dire delle cose che hanno un senso. Perché vuoi tagliare i coglioni a Parenzo? È perché lei capisce che questa persona difende questi immigrati e viene portato in alto come Gheddafi, come quella. Vediamo a che livello basso arriviamo. Avanti, continui. Ma che c'entra Gheddafi? Vediamo, vada avanti, dai. Io sono stato là in Etiopia, nel ritorno, e io bisogna provare per una foto di merda. Veni ucciso altro po'. Ma che ne sappiamo noi di quello che ti è successo in Etiopia, in Eritrea, la foto io ero un ex marinaio, stavo imbarcato a fare una foto per una montagna che mi piaceva. Arriva una jeep, tu spia, io spia. Io lavoro qua. Vabbè, sei stato accusato di essere una spia. Adesso ce l'hai con gli stranieri perché... No, io ce l'ho con te perché sono stato in Africa, in Kenya, a Mogadiscio. Allora... Là erano diversi. Là sapevano parlare italiano meglio di noi e c'erano tutti bianchi, una struttura. Piero, mi sembra che non sei molto connesso. Ciao. A me questa fogna piace ogni giorno di più. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Io ho 30 anni, non ho mai avuto problemi con le donne, ne ho sempre avute veramente a centinaia, ma mi sono rotto i coglioni di starci dietro e di spenderci più soldi di chiunque altro. Molto meglio le mignotte. Prendi quello che devi prendere, l'unica cosa che puoi prendere da una donna, paghi. E dopo hai tutto il tempo per i cazzi tuoi. Vabbè ragazzi, però questo è esagerato, eh. Questo è un po' esagerato, questo ascoltatore. No, Parenzo, non è esagerato. È esagerato, direi. Allora, abbiamo con noi, grande ritorno alla Zanzara, Maurizio Bianconi. Buonasera, deputato. Buonasera a voi. Come stai? Buonasera. Ti abbraccio fortissimo, caro Maurizio. Grazie. Spero che tu stia bene. Ti vedo incazzato di fronte alla Camera quando ti chiedono della storia dell'assicurazione. Sono degli imbecilli, quindi che devo fare? Ho capito, amico mio. Ti vengono a fare una domanda sul fatto che la Camera... È una domanda sulla quale nessun deputato sa rispondere, perché non mica ci fanno noi le assicurazioni. Anzi, non penso neanche che nessuno di noi l'abbia mai letta. Ho capito, però questo è grave. I soldi si danno, si ricavano dalla busta paga, sono di molto di quello che mi assicurano. Ma è curioso. E questa qui era una vera testa di cazzo, come ho avuto modo di dirgli, perché non si fa così il giornalismo. Scusi, sai perché sei dell'assicurazione? Ma ci vai a fanculo. Cioè, nel senso che la tecnica ormai è nota, no? Ti inseguono. Rompono i coglioni e dici: scusi, lei sa dell'assicurazione? Uno se dice di no, se dici no, passi per pezzo di merda, per uno che ha fatto una figuraccia. È così la storia. Tu hai reagito dicendo: questo qui significa soltanto screditare inutilmente. Non è che non ce lo meritiamo di essere screditati, ma ci si deve essere screditati per le puttanate politiche che facciamo. In realtà qui si sputtana chi ce la fa la domanda. È anche curioso però, Maurizio, è anche curioso il fatto che nel bilancio della Camera qualcuno scrive 350.000 euro per l'assicurazione dei deputati e nessuno sa un cazzo. Nessuno sa un cazzo perché le fanno i questori, ma questo ha immemorabili, ma non li spende la Camera, è la Camera. Ma ci sarà una comunicazione che vi verrà data che avete un'assicurazione? Anzi, lo chiedi? Io mi sono anche fatto male e ho chiesto che assicurazione avevo e mi hanno detto no, lei non gli riguarda, buongiorno, e sono andato. Vabbè. No, è tutto molto... Senti, voglio sapere da te invece, Maurizio, che ne pensi di un personaggio che si chiama Napolitano, che è stato citato anche questa sera da Salvini, il quale ha parlato del voto, no, della volontà popolare in maniera molto negativa. Napolitano è il peggior personaggio che sia mai comparso negli ultimi anni sullo scenario italiano. Ha determinato i semi colpi di Stato di Monti, è stato agli ordini di chi gliel'ha dati, ha dato il beneplacito per bombardare la Libia, ha messo bocca su tutto, ha fatto un signore senatore a vita il giorno prima di impalmarlo primo ministro, poi si è visto, ha preso 3 voti e ha fatto più danni che la grandine. È un uomo che pretende di fare la volontà popolare, quella che fa comodo a lui. Quando non fa comodo a lui né più né popolare né niente, perché lui è sovrano dei sovrani. È una iattura, è una delle tante iattue italiane, ma andrebbe forse la peggiore. Ma andrebbe messo sotto processo, come dice qualcuno? Secondo me sì. Ma, non è da adesso che lo dico io. Ma in che modo? Follia, ma in che modo? Non è da adesso che lo dico. Cioè, io, ha attentato alla Costituzione, cose di questo tipo. Lui ha favorito la fine della democrazia in Italia, facendo fare il primo ministro a Monti, che ha fatto una serie di provvedimenti. Lo ha deciso il Parlamento. Lo ha deciso il Parlamento. Dai. La democrazia italiana e la piegata che sta Parenzo volere. Dice che tutte le cose ma sono. Ma lo ha deciso il Parlamento, ma che dici? Dai, ma la nostra è una repubblica parlamentare. Ma perché devi dire? Quando gli dissi merda, ma l'Europa era l'unico che si incazzava. C'era, l'Europa ci aveva messo sotto scacco, il governo Berlusconi non era in grado di fare neanche una finanziaria, dai, su, ma ragazzi. Non è esistito più il Parlamento per 2 anni. Non è esistito più. Romano Di Monti, competente, che non è altro. Incompetente, presidente della Bocconi, incompetente, economista, incompetente. Però scusami, Parenzo, tu dai per scontato che se uno è presidente della Bocconi... No! È un economista, ragazzi. Ma che vuol dire? Non è che tutti gli economisti sono bravi. C'è una differenza tra Ballard e Monti, che hai detto, Bianconi? Anche l'onorevole Corsaro è un bocconiano. Ce ne sono 50 di bocconiani in Parlamento. Non è mica che questo è il più saggio di tutti. Questo è il più venduto di tutti. Ma Monti è il più venduto di tutti. È venduto a chi? Venduto le misure impopolari, grazie a quelle poi si riescono a fare ste finanziarie grazie alle sue misure impopolari dell'epoca. Ma no, ma che cazzo dici? Ma te dai, non capisci ragazzi, niente. Ma che roba è? Mamma mia. Né di politica né di economia. Ma ormai la libertà di parola a chiunque guarda, proprio. Vabbè, democrazia. Molte volte bello. Fai bene a limitare tutto quello che ti va fuori da quella boccaccia infame che ogni tanto sballa. E te giustamente lo riporti nella giusta via. Ma un po' da ma ormai ma tutte le vacche sono uscite. Che vuoi fare? Ormai tutto ma non ho capito, perché uno non può sostenere che Monti ha fatto male. Non capisco qual è ma il problema. Si può dire, ma dire che non è che è un economista non preparato. Questa è una stupidaggine. Ma voglio ma dire, una però stupidaggine. Per carità, ormai si può dire qualunque cosa. Che dai, è un somaro. E io sono convinto che è un somaro. E ti spiego perché. Perché uno che ha detto Stiglitz, sta parlando che Stiglitz. In Italia si doveva abbassare i consumi e si doveva fare ridurre gli italiani a consumare meno perché consumavano troppo rispetto alle loro potenzialità e ha creato deflazione, inflazione. Sì, lui l'ha creata, ma che ha mandato a casa milioni di persone. Uno che dice una cosa così è un incompetente. Sarebbe da ma ringraziare. Ci sono papà, 3 persone che in questo paese vanno ringraziate. Tre persone vanno ringraziate. Anzi, scusami, 4. Parla anche bene e allora è intelligente. Questo non 4 persone niente. Vanno ringraziate in questo paese: Giuliano Amato, Lamberto Dini, Romano Prodi e il professor Monti. Questi 4 hanno salvato il paese dal default. Questi 4 nomi: Amato, Dini con la riforma delle pensioni. Hanno fatto tutte riforme impopolari perché le cose popolari sono spesa pubblica. Certamente, perché hanno fatto cose che ovviamente sono impopolari perché sono dure, drastiche rispetto alle porcherie ragazzi, però non vi sovrapponete, passato, su, ma che state a fare i comizi, dai, su, Parenzo, allora, sembra che fai un comizio, vacca, sembra, avanti, su, ma sembra che stia facendo un comizio per difendere delle persone invece avanti, di parlare mettiamo con gli ospiti, in galera, dai. Mettiamo in galera Monti, forse sentiamo la prossima stronzata, scusami, avanti, dai. In galera Monti, allora hai ragione, ma no, le stupidaggini che si dicono in libertà, va bene, però per carità, sì, ma tu fai i comizi, fai. Ma che comizi, dai. Ma un processo glielo farei. Anche a Monti? Anche a Monti? Sì, Monti peggio dell'altro. Ma come? Processo per che cosa? Per quali reati? All'alto tradimento, quantomeno. Se voi leggete tutte le interviste che ha dato, voi siete giornalisti, e leggeteli, le interviste che ha dato all'estero, ha detto che ha fatto coscientemente dei provvedimenti coloniali per l'Italia, ha scientemente contratto l'economia italiana, ha scientemente tolto sovranità al paese. Lo ha detto più volte alla CNN da tutte le parti. Secondo Parenzo magari ha fatto bene. Secondo me ha tradito l'Italia. Senti una cosa, vediamo un pochino. Che ne pensi di Saviano che ha detto che Trump è un simbolo dell'America cafona, tracotante, ignorante, poi se l'è prese pure con Briatore. La sinistra corta. La sinistra una volta difendeva quelli coi calli nelle mani, ora difende quelli coi calli nel cervello. con i galli nel cervello. Nel cervello. Anche questa è una balla, una contraddizione. Sai cosa ha detto Saviano? Quando vado nelle scuole e chiedo agli studenti chi vorrebbero essere, mi sento rispondere Briatore. Non hanno bene in testa cosa faccia, non sanno se se la gode, magari fregandosene delle regole. Cioè c'è questa idea che se uno vuole essere, cioè, se mia figlia mi dicesse, o mio figlio che non ho, mi dicesse ma a me piace Briatore, io non mi scandalizzerei. Parenzo per esempio si scandalizzerebbe. Ma chi te l'ha detto a te? No, io mi auguro che tu, come dire, trasmetti dei modelli dell'educazione dei tuoi figli, me lo auguro. Briatore... Io provo a farlo. Ma non parlo di Briatore, parlo di altro, modelli, dei modelli, certo. Dei modelli, ma tu hai ricevuto un'educazione dai tuoi genitori, sì o no? Modelli no, non ho ricevuto. Parli. Modelli no, non ho ricevuto. Hai ricevuto un'impronta. Per fortuna, modelli no. Modelli non hai ricevuto un'educazione. No, solo l'onestà, basta. Solo l'onestà. L'onestà anche intellettuale. Anche intellettuale, assolutamente. Onestà, eccetera. Non modelli, quello è meglio di quello è meglio di quell'altro. Quello è un modello, l'onestà è un modello, Ma certo. L'onestà è un valore. Allora, di che parliamo? È un valore, non è un modello. Io cerco di trasmettere dei valori ai miei figli. Poi sbaglierò, ma chi se ne frega. Senti, ai miei figli cerco di trasmettere dei valori. Hai ancora casini con gli animalisti, con i vegani, Maurizio? No, a me non mi hanno dato più noi adesso. Hanno un pochino, secondo me, hanno anche abbassato i toni, perché hanno capito che non andavano tanto lontano con tutti. Beh, insomma, ancora continua. Ma ce n'era uno, non so se da voi, che diceva che doveva fare. Ah no, l'ho sentito. Quello lì dei cantanti, come si chiama? Chi è quello che ha tutti i capelli tinti, che ha gli occhiali, quello dei cantanti. Ah, Red Ronnie, bravo. Red Ronnie. Ha detto che bisognava salvare anche i pidocchi. Sì, che i pidocchi. Sì, che i pidocchi bisognava lasciarli, non bisognava ucciderli. Che ne pensi di quello? Una follia totale. Beh, lasciamo fare, insomma, voglio dire. È vero che la Boschi fa la ministro e quindi ci può essere anche Red Ronnie che vuole salvare i pidocchi. Siamo nel mondo dell'impossibile. A proposito, un'ultima cosa, la questione del voto all'estero degli italiani, c'è un grande scandalo in queste ore, no? Cioè con queste lettere mandate da Renzi, una cosa da denuncia, una cosa da tribunale, una cosa da... Spieghiamo la cosa, perché se no Renzi è sicuro, e su questo non ha torto, che se votano italiani all'estero vince il referendum. Perché il voto all'estero è più facilmente gestibile. Vi ricordo quel senatore che è in galera. Sì, però quello l'hanno fatto tutti, dice Renzi. Le lettere l'hanno mandate tutti. Però l'organizzazione della sinistra è maggiore. Non è che l'hanno fatto tutti. L'ha fatto lui, perché noi del Comitato del No abbiamo chiesto gli interessi e non ce l'hanno dato. E invece a lui gliel'hanno dato. Ma infatti è una stupidaggine il voto degli italiani all'estero. È stato stupido fare andrebbe cancellato domani mattina. E su questo io sono d'accordo. È una delle maggiori colpe. Voti che dove paghi le tasse. Arrivederci, grazie. Maglia, che invece la mia parte, e dove stai? Bisogna cancellarlo domani mattina. Non il capisco, perché uno in America Latina deve decidere chi governa l'Italia. Bene, ciao Maurizio, ciao, presto. Ciao a voi, arrivederci, grazie. Ragazzi, stasera è intervenuto chi? Vuole ammazzare Renzi. Ma sì, appunto. Prendere a calci in culo Bergoglio. Processare Napolitano e Monti. Beh, meraviglioso. Top assoluto. Margot da Modena, vai, Margot. Ciao ragazzi. Ciao, questi, dimmi, Margot. Questi birichini di questi due ragazzacci che mi fanno ridere da morire. Margot, che sei, femmina, maschio o gay o transessuale? Non ho capito. Lo so, una voce un po'... appunto, non lo capisco. Non sono ormai vecchia. Vi volevo fare adesso... Femmina. Una piccola lezioncina. Scusa Margot, ma femmina col pisello o femmina normale? Cioè, ma per dingi, ma io sono una femmina che ha fatto ridere, ho fatto una figlia, magari c'hai un pisello di 20 centimetri, che ne so. Mi sto offendendo. Ma no, perché ti offendi? Femminile. Perché ti offendi a essere gay? A essere transessuale? No. Vabbè, no, allora io sono apertissima in mente gay. Allora, Margot, dimmi. Solidari, abbraccio tutti. Ma per l'amor di Dio, vi volevo fare una piccola lezioncina su quello che ha detto il dottor Cruciani per quanto riguarda il trombo emorroidario. Per fortuna si deve chiudere. Per fortuna. Il trombo emorroidario. Ma è venuto Parenzo, che mi sta dando simpatico Parenzo. Però, scusami Margot, che schifo. L'avete fatta tanto grave è una banalità. È una banalità, infatti non lo so dire. Ma fa schifo raccontarlo. Allora, me la son fatta sempre da sveglia. Cosa te la sei fatta? Mica da sola l'intervento. No, ma anch'io ero sveglio, che c'entra? Anch'io ero sveglio, mica mi sono addormentato, amica mia, certo. Ma dove ce l'avevi tu questi trombi? le emorroidi. Ma dove ce l'avevi? Al culo? Dove si trovano le emorroidi, quindi con il mio popò in aria. E col medico dietro? E certo, il chirurgo che mi tagliava, e poi logico, c'è un trombo, un piccolo coagulo di sangue o grande che sia, lo strizza, lo porta via. Margo da Modena! Dopo 2 minuti a lavorare di nuovo. Perché l'avete fatta così grave? Ma chi l'ha fatta così grave? Assolutamente. No. Aspetta, no, aspetta, Olivier da Pavia, aspetta Margo, aspetta, Olivier da Pavia, Olivier, dimmi. Olivier. Sì, pronto. Scusate, che sei, francese, che sei? No, sono italiano. Dimmi, veloce però, no. Eh? Sì, sono veramente offeso dal tipo che ha parlato prima. Quale sarebbe? Insultando i neri italiani. Amico mio, quello è Donato da Varese, è una specie di monumento, però, qui però, è un personaggio che ormai popola questa trasmissione da diverso tempo, ogni tanto dice la sua, qual è il problema? Ho capito, se offende qualcuno ci sono i tribunali, verrà processato, addirittura è stato portato in tribunale il signor Chicco Testa, per cui non c'è problema, qui c'è grande libertà di parola. E se poi qualcuno si offende, denunci, siamo qui, Olivier, sei scandalizzato, perché sei scandalizzato? È possibile dare la voce a una persona che la ti mette così gratuitamente a insultare un'altra persona? Ma che ti devo dire io? Cioè, non è che prenditela con lui, noi diamo parola a tutti. Naturalmente poi ci sono dei momenti in cui però il fatto di ammazzare Renzi, Bergoglio, c'è la cosa che aveva già detto, Ci sentiamo the man. Ciao. Tanti dicono che siete al top, per me invece siete bassi da far schifo. Fate cagare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.